Allora, eccoci, sempre dell'87900 di Radio Onda Rossa, dunque 12:48, noi siamo al telefono con lo storico Davide Conti. Ciao Davide, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti e a tutti. Allora, insieme a te ovviamente cerchiamo un po' di occuparci in preparazione di quella che sarà l'apertura di questo processo che vede imputati questi tre ragazzi che hanno fatto delle scritte sul mausoleo dedicato a Graziani nel comune di Affile e appunto cerchiamo un po' di far chiarezza e, come già abbiamo fatto in passato, di capire chi era questo personaggio a cui è stato dedicato questo mausoleo, oltretutto con soldi anche pubblici. E lo facciamo cercando anche un po' di divertirci, per così dire, prendendo spunto proprio dal modo in cui questo personaggio viene presentato nella pagina web del comune di Affile. Non contenti ovviamente, ma probabilmente questa pagina precede anche l'erezione del mausoleo. Insomma, è questo Rodolfo Graziani evidentemente ritenuto un personaggio in grado di dare lustro al comune di Affile, tant'è che appunto c'è questo bel paginone biografico a lui dedicato. Io, Davide, se tu sei d'accordo, ne leggerei alcuni stralci e poi vediamo insomma di commentarli insieme. Facciamo un po' questo giochetto, ok? Sì. Allora, lasciamo perdere, diciamo, le prime note della infanzia e adolescenza del buon Graziani. Arriviamo già al 1921, quando accetta Graziani di essere inviato in Africa per riconquistare la Libia, una cosa che ovviamente non è per nulla semplice per via dell'organizzazione della guerriglia anti-italiana. Cosa fa Graziani? Aiutato dalla conoscenza della lingua e dei costumi arabi, il colonnello Graziani introdusse tra i reparti italiani un tipo di lotta basata sulla rapidità dell'azione, sulla velocità negli spostamenti. Con questa tattica riconquista la pianura e quindi l'altopiano tripolitano. Ecco, davvero proprio sorretto da questa alta conoscenza della cultura e della lingua e dei costumi arabi che il buon Graziani va a riconquistare la Libia, Davide? No, naturalmente no. Lui scrisse un testo che si chiama Cirenaica Pacificata e che trae spunto, diciamo così, rispetto alla riflessione militare sulla pacificazione come in senso fascista di quell'area refrattaria al colonialismo italiano, in chiave appunto di guerriglia, di controguerriglia e soprattutto di utilizzo di mezzi militarmente naturalmente sproporzionati rispetto alla capacità militare di risposta di quelli che venivano chiamati allogeni, cioè delle popolazioni locali, che subiscono quindi l'utilizzo da parte di Graziani dei metodi più draconiani, diciamo sia di condotta militare che di utilizzo di mezzi militari stessi del Regio Esercito Italiano. Vengono lì costruite delle strutture concentrazionarie, vengono eseguite rappresaglie e stragi, diciamo anche preventive, che naturalmente hanno nella loro concezione militare l'idea di fiaccare il sostegno delle popolazioni civili alle formazioni ribelli e dall'altra parte anche di terminare fisicamente queste formazioni. La pacificazione in senso fascista della Cirenaica passa attraverso misure che poi nella Seconda Guerra Mondiale verranno inquadrate anche dal punto di vista non solo storico ma anche giuridico come crimini di guerra. E infatti Graziani in quelle terre è ricordato proprio come tale, come un criminale di guerra. Criminale di guerra. Bene, andiamo avanti. Sappiamo insomma che Graziani è uno dei protagonisti dell'annessione etiopica e della conquista dell'impero. Nel maggio del 1936 viene nominato viceré, viene nominato maresciallo d'Italia. Cosa dice la pagina biografica dedicata a Graziani da parte del comune di Affile? Egli, in Etiopia, con la solita risoluzione diffuse capillarmente il dominio politico-militare sulle varie province, compì grandiosi lavori pubblici che ancora oggi testimoniano la volontà civilizzante dell'Italia, rimase a dirigere quella regione anche quando fu fatto segno di un attentato da parte di un gruppo di giovani etiopici nel febbraio 37. durante i festeggiamenti per la nascita del principe di Napoli. Nel mese di dicembre di quell'anno venne sostituito nell'incarico dal duca Amedeo d'Aosta e rimpatriato, rimase a disposizione del governo anche a causa di invidie e gelosie dovute alla sua acquisita grande popolarità. Mi sembra che manchi qualcosa in questa ricostruzione, soprattutto sì, vogliamo dirlo, in chiave, diciamo, delle rappresaglie che seguirono all'azione militare contro di lui. E dal punto di vista, diciamo così, della recrudescenza di quelle misure militari, sostanzialmente ci furono dei veri e propri pogrom successivi all'azione contro Gassiani, e questi pogrom portarono all'arresto, alla deportazione, all'uccisione, alla fucilazione, all'impiccagione di centinaia di civili per giorni, con razzie di ogni genere nei villaggi e negli abitati civili, e con, appunto, lo dicevo prima, le deportazioni in campi di concentramento che erano stati progressivamente costruiti proprio in funzione di repressione politico-militare delle forze ribelli, così cosiddette. Graziani naturalmente si macchiò anche di altri crimini. In generale l'Italia, diciamo così, si macchiò di crimini durante il periodo coloniale. Naturalmente il più noto è la strage di Debra Libanos, quando appunto vennero uccisi dei monaci copti per rappresaglia, per misura di controguerriglia nei confronti delle popolazioni civili. Una strage molto nota, di cui parlano diversi libri di storia, e che appunto segna marcatamente, dal punto di vista simbolico, semantico, la draconianità non solo delle misure, ma anche la crudezza del rapporto, del principio coloniale che mosse il dominio dell'allora viceré Graziani, proprio perché questo tipo di misure facevano perno sull'idea, sul concetto civilizzatore, proprio quello che viene menzionato nel sito internet di un comune della Repubblica Italiana Democratica, a quanto capisco, che viene riportato, dicevo, come principio fondante e come principio di elogio nei confronti del criminale di guerra Graziani. Il principio, appunto, della civilizzazione, del colonialismo italiano come elemento di civilizzazione di popoli barbari, di popoli da sottomettere, e che quindi naturalmente sui quali si poteva fare uso anche di misure repressive durissime, proprio perché utili alla educazione pedagogica della politica dell'impero che Mussolini aveva elaborato e che Graziani metteva in pratica su quei territori. Dunque, Graziani poi viene descritto come abile e saggio consigliere, peraltro in grado, o comunque che tenta di far retrocedere Mussolini dalla sua volontà di allearsi con i tedeschi e essere a fianco della Germania nella guerra mondiale. Non gli riesce questo tentativo e viene anche poi mandato a conquistare l'Egitto. Sappiamo poi dei continui rovesci militari ci saranno. Poi, dopo l'8 settembre 43, viene ripescato nuovamente e fa parte del nuovo governo della Repubblica Sociale Italiana come ministro della difesa. Questo frangente viene descritto così in questo sito web: furono mesi di inutili opposizioni alla strapotenza alleata, di tristi atteggiamento di rivalsa contro molte prepotenze tedesche verso l'Italia e verso gli italiani, nonché della resa dei conti per una capitolazione anonima avvenuta il 29 aprile 45 presso il comando del quarto corpo d'armata americano. Quindi Graziani sostanzialmente viene descritto come colui che cerca in qualche modo di placare le prepotenze tedesche in Italia, Davide. Sì, naturalmente non è così. Lui è l'unico esponente degli altissimi vertici militari italiani che segue Mussolini a Salò, e naturalmente ne diventa non solo il consigliere politico-militare, ma il braccio operativo sul piano dell'organizzazione delle truppe, che, lo ricordiamo, significa organizzazione e disposizione territoriale delle Brigate Nere, della Guardia Nazionale Repubblicana, cioè di tutti quei gruppi salotini che si macchiarono di crimini contro i civili e contro i partigiani, per cui nel dopoguerra avrebbero dovuto, sappiamo che in larga parte non è stato così, rispondere non solo dal punto di vista giuridico ma anche da quello politico-sociale. Tutto questo naturalmente passò attraverso i comandi diretti di Graziani, che nel dopoguerra venne processato e condannato per questo, salvo poi essere naturalmente liberato in rapida successione, riabilitato politicamente da un episodio molto noto, che è quello dell'abbraccio di Arcinazzo con il ministro della difesa Andreotti, che appunto sancì in qualche misura un passaggio simbolico di riconciliazione tra due forme storiche naturalmente diverse di anticomunismo, sostanzialmente quello facente capo al blocco conservatore della Democrazia Cristiana e quello direttamente erede dell'esperienza non solo fascista ma anche salottina, che appunto era rappresentata da Graziani. Questa, diciamo, ricomposizione passa attraverso la questione della mancata epurazione, della mancata punizione dei crimini di guerra italiani e soprattutto la mancata sanzione, almeno simbolica, diciamo così, dei maggiori responsabili di questi crimini. Graziani è naturalmente uno dei massimi esponenti della criminalità fascista, politica e militare, e naturalmente quel passaggio, la sua successiva liberazione alla condanna e subito dopo, all'inizio degli anni 50, la legittimazione politica ottenuta da un esponente del calibro di Andreotti, ripristinano una rappresentazione anche semantica nell'immaginario dell'opinione pubblica, che colloca Graziani non più nello schieramento fascista e quindi storicamente condannabile, ma in un più ampio perimetro politico e sociale, ricomprensivo di tutte quelle forze, di tutti quegli uomini, di tutte quelle istanze che guardavano all'anticomunismo come alla battaglia principale da combattere nell'Italia della guerra fredda. Bene, allora io ti leggo come si conclude questo ritratto che leggiamo, lo ricordo, dalla pagina web del Comune di Affile. Dopo una breve riapparizione politica nella carica di presidente onorario del Movimento Sociale Italiano, si spense a Roma l'11 gennaio 55 all'età di 73 anni. Le sue spoglie mortali, trasportate ad Affile tra un'immensa folla di gente, riposano nella tomba del cimitero vecchio assieme ai suoi familiari. Forse troppo dimenticato, come dimenticato fu durante la vita, nonostante l'esistenza intera spesa per il bene e la grandezza della patria. Ora, queste ultime righe ci conducono a quello che, diciamo, è come dire, il quesito, la questione fondamentale che è importante per vedere con le giuste lenti questo processo che si è istruito e che si aprirà il 1° aprile a danno dei tre ragazzi accusati di aver imbrattato il mausoleo al soldato, o meglio al fascista, Graziani. Ecco, non è normale che la pagina web di un comune italiano contenga simili nefandezze, castronerie e vere e proprie falsità. Insomma, abbiamo a che fare con un paese dalla memoria corta, ma le cui istituzioni, talvolta in modo silenzioso e subdolo, attraverso magari le omissioni, il racconto edulcorato, altre volte in modo più sfacciato, ed è il caso del comune di Affile e del mausoleo, ovviamente operano nel senso di una ricostruzione storica sfacciatamente revisionistica, come dire, profondamente distante da un approccio serio, scientifico, piena di contraffazioni, di censure, di manipolazioni, pronta anche per i più disinvolti usi politici. Insomma, questo mi sembra che si possa dire a conclusione della lettura di questa incredibile pagina web, no? No, è un elemento, come dire, un esempio classico della distonia tra la storia e la narrazione di quelle vicende. Anche naturalmente dal punto di vista istituzionale si è fatto, è una discrasia talmente evidente che balza agli occhi soprattutto nella logica della comparazione. Cioè, noi possiamo ipotizzare che venga eretto un mausoleo, un monumento celebrativo a Göring in Germania? No, sarebbe una cosa impensabile in assoluto. Non che sia stata semplice la transizione tedesca, ma dal punto di vista della, come dire, ricostruzione simbolica della memoria del nazismo, nulla c'è a che vedere con le misure edulcorate di ricostruzione narrative che si fanno e si sono fatte del fascismo. Il problema dei mancati conti col passato, le grandi questioni storiografiche della continuità dello Stato, dei mancati processi, della mancata Norimberga in Italia sostanzialmente, si ripresentano poi nelle forme moderne, naturalmente in questi episodi, che sono naturalmente clamorosi dal punto di vista visivo, ma che sono anche molto più numerosi dal punto di vista locale e del sentito comune, perché poi fondamentalmente uno dei grandi problemi di queste che emergono nell'analisi di queste vicende è proprio questo, cioè la difficoltà di incidere dal punto di vista della conoscenza storica su un senso comune che è stato plasmato per decenni sull'idea della differenziazione innanzitutto tra il fascismo e il nazismo, tra la separazione, diciamo così, delle condotte anche militari oltre che politico-ideologiche dei due regimi durante la Seconda Guerra Mondiale, e poi naturalmente la ricomprensione di tutta la problematica del consenso al fascismo dentro un alveo compatibile con un perimetro che si strutturava intorno al blocco della Guerra Fredda e che quindi guardava almeno alla parte maggioritaria della resistenza stessa in termini numerici e politici oltre che militari, come ad un elemento estraneo, tendenzialmente estraneo ai processi culturali e di ricostruzione politico-economica del paese. Questo tipo di episodi in realtà sottendono a queste grandi questioni storiografiche, quindi non rappresentano, come dire, una misura locale, localistica o appunto approssimativa di una qualche giunta comunale, ma simboleggiano un problema molto più ampio, che fa capo appunto alle grandi questioni della vicenda del nostro paese. Da questo punto di vista, naturalmente, la misura repressiva adottata nei confronti di tre ragazzi che hanno così imbrattato, insomma, il monumento è simbolica. Un'azione antifascista viene punita legalmente nell'Italia nata dalla Resistenza, diciamo simbolicamente rappresenta tutto quello che abbiamo cominciato a dire questa mattina. Assolutamente, io sei stato molto chiaro, Davide, ho davvero poco da aggiungere e quindi non mi resta che ringraziarti per questo tuo contributo. E grazie a voi. È un contributo che va ovviamente nella direzione di seguire con molto da vicino questa vicenda fino a che, insomma, questi tre ragazzi non ne usciranno. Allora, grazie e a presto. Ciao Davide. Grazie a tutti, a presto.